Questi marinai parlano poco, a suoni brevi, camminano con meno iattanza degli altri e si direbbe con meno bravura, quasi non consentissero al mare, pure vanno di volo. Il vascello era piccolo e fu ventura esservi ammessi perché navigava per conto di certi cavalieri di Malta e non vollero moneta. Vi era anche una dama, ma non si vide. C'era l'ordine che tutti stessero al coperto, ma Artemisia non volle persuadersene e fuori rimase, scuotendo la testa, quelli della ciurma, eppure non la costrinsero. Per compagnia ebbe accoccolato ai piedi un cane nero dagli occhi gialli, buono e zitto, che era una meraviglia. Non si sapeva di chi fosse, ma tutti i marinai passando l'accarezzavano e gli offrivano un biscotto. Senza accorgersene si entrò nella nebbia fitta e di continuo suonavano campane, pareva dovesse uscir messa. Ma di messa non si può parlare in Inghilterra, che non ne dicono, salvo che per la regina che è cattolica. Questo Artemisia lo sa, ma non sapeva quanto l'avrebbe colpita il riflesso che non ci sarebbero più chiese dove entrare a sedere su un banco, in silenzio, per riposo, come aveva sempre fatto. Racconti di ferocia luterana, preti impiccati, fedeli bruciati vivi, risorsero nella memoria da referti casuali, ma pur non erano credibili in quest'aria diovatta e fra questi uomini calmi dagli occhi celesti. Qui finisce l'occasione di parlare e anche l'istinto è come trovarsi fra uccelli e voler decifrare il loro verso. I rapporti con questa gente sono accenni, sobri e compunti, non più da sordo a sordo come in Francia, ma da muto a muto. Ne fanno lega tra loro gli inglesi, mentre parlano non muovono le labbra e di rado si guardano. Tutta la notte convenne rimanere a bordo, che si era levato vento e non si poteva sbarcare. Al tramonto, che calò rapidissimo, l'impressione fu di essere in inferno, prigionieri abbandonati. Nero tutto, fioche le lampade come uova sode tra la nebbia e sempre campane. Il vascello rullava per tutti i versi, il cane guaiva piano al buio, Artemisia cercava la strada per tornare al coperto e mai l'avrebbe trovata se un marinaio non ce l'avesse spinta senza una parola. Dentro, gemiti, sospiri e le solite catinelle. Di letti non si ragionava, ma Artemisia trovò modo di stendersi in terra e fu certa di prender sonno. S'era avvezzata al fracasso del mare. Vincerlo dormendo le piaceva. Quando si svegliò fra quei corpi di malazzati e stralunati, si sentì fresca e alacre. Il mare era liscio, grigio, appena squamoso, scomparsa la nebbia. Vide una gran roccia bianca, pulita e nuda, come un grande osso, e così vicina e imminente che pareva di toccarla con la fronte. Era la costa, il suolo d'Inghilterra, una parete senza approdo da sbatterci contro come rondini cieche. Ma la nave non ci sbatté e si vide Dover, poche casette, un porto deserto. Questa è una terra piccola, di stanze di poco conto, voci come brusio, colline, campi, alberi, credi di misurarli a palmi. Il cielo basso anche qui, ma fatto a scodella, circoscritto in proporzione della terra e mai alte montagne ci potrebbero capire. Capanne come pollai, con i loro tetti di strame grigio, carrozze assai proprie, ma piccoline anch'esse, e piccoli parvero anche i cavalli, se non che ogni cosa e ognuno ad accostarsene ritornava alla misura regolare e anzi la gente era alta, bella e vigorosa, non più di Orazio Gentileschi. Tuttavia, che parve uno di loro, diritto come quando era partito d'Italia, con quelle pupille grigie, quella barbetta spiritosa che ancor canuta non era. Se lo trovò davanti a Canterbury, mentre scendeva di vettura, e non sapeva di dove fosse scaturito, così presente, fedele alla sua forma antica, da non provarne neppure sorpresa. Gioia, sì, immensa gioia. Le pose quella sua mano leggera sulla spalla e disse: «Sei qui, bambina». E ogni affanno sparì d'Artemisia. Se ancora si svagava alla finestra, indolente di uscire in questo palazzo di Londra che è della regina, non era per incapacità di sostenersi e farsi valere, ma per una smemoratezza d'infanzia ritrovata. Succeda quel che vuol succedere. Dietro le sue spalle, convincente e sicura, si apriva la sala dove suo padre dormiva, mangiava e lavorava, tra mobili di ogni foggia, stravaganti, che pareva più un ripostiglio che un'abitazione. Ora non falliva il suo scopo di essere casa e proteggere. Né il luogo mancava di decoro e grandezza, perché fra quelle sedie bislunghe e cassapanche, Orazio s'era annidato, chissà da quanto, trovando la luce giusta, il comodo per dipingere, per star quieto. E a ogni oggetto egli sovrastava con un'impronta e un'autorità lontani dall'ordine casalingo, ma che non l'offendevano, sicché la figlia esitava a metterci le mani. Tele grandi e medie per ogni dove attestavano le fatiche di anni, l'eccellenza raggiunta con mezzi che avevano una lunga storia, e Artemisia poteva ricostruirla e riconoscerla passo passo, trovandoci spiegazioni e successi di un rigore, di una felicità meditata e sottile da farle giudicare i propri modi, quelli di una brutale meccanica. Così dolce ravvisarsi, non donna, ma grezza scolara e minima, non di fronte all'uomo, ma al maestro che non ha mai ceduto in valore e in studio e sempre procede. Più volentieri egli dipinge ora tele piccole e non le fa vedere a nessuno. Artemisia si accorge bene che gliele lascia guardare a malincuore, cercando pretesti per coprirle col corpo o per voltarle al muro. Anche la sua tavolozza era piccola e di pochi colori, 5 o 6 al più. I pennelli finissimi, le terre e le lacche sempre accuratamente riposte in un credenzino, non era facile esaminarle. Finché la luce era buona, Orazio lavorava, e se la figlia gli volgeva le spalle e taceva, un fischiettio sordo e uniforme gli usciva dalle labbra. Un suono che richiamava incantati esercizi infantili e che i ragazzi gentileschi riconoscevano come segno di umor sereno, di applicazione attenta e fortunata. Su quel sibilo si rafforzava la pace di Artemisia, una pace che non voleva essere discussa, ma soltanto goduta. Non si muoveva, sapeva che dietro di lei il vecchio pittore componeva a spicchi di verde, di oltremarino, di rosa tenero, di oro basso, paesi e corpi umani, cieli, sete, prati e acque chiare. E le sembrava di non saper dipingere, e quasi se ne rallegrava, restando ferma nella luce diffusa della finestra, come se il padre glielo avesse comandato e fosse quel modo di lasciarlo tranquillo uno stare a modello per lui. D'altronde, sul tema di quell'ordine dipinto, parevano sistemarsi i giardini piatti ed erbosi, le nuvole, le pietre, il fiume, e reagire al sommesso lume settentrionale come Orazio comandava. Forse Artemisia avrebbe imparato ancora. Non si interessava alle barchette delle lattaie, al traffico fluviale dei barconi da carico, ai diporti dei gentiluomini variopinti. Le lettere che avrebbe potuto scrivere adesso erano quadri, nuovi segni di una nuova attenzione. E a momenti ci sperava, ci contava assolutamente, risentendosi giovane e gagliarda, come quando, dopo aver lavorato d'impegno, accettava una vacanza ripromettendosi un lavoro più attento. Accadeva che Lady Arabella, grande amica di Orazio, uscisse sulla terrazza sottostante. La regina dormiva all'italiana tutti i pomeriggi e le mandasse un baciamano grazioso sulla punta delle dita. Allora Artemisia arrossiva e si ritirava nell'interno della stanza. Per quell'atto di approccio confidenziale un tantino protettivo si rammentava di essere in corte, in questa corte che l'aveva chiamata, e ora la dimenticava. Si ritrovava malinconica e ritrosa e badava a non farsi più scorgere, pur non disturbando suo padre. Così finiva per non vedere che il cielo, e come presto si oscurasse, inghiottito dal buio. Imparò a servire birra calda e ad affettare massicci arrosti di carni selvatiche che i paggi recavano dai rilievi della regina. Orazio si era avvezzato all'inglese e trangugiava ogni cosa, distratto e sicuro di quel suo stomaco di ferro, della vita della figlia e sin dell'occasione che l'aveva condotta per suo mezzo quassù. Pareva essersi scordato, né trovava a ridire sulla scarsa attività di lei che sedeva di grand'ore con un lavoretto femminile fra mano. Proprio uno di quelli che vivendo in famiglia usava rimproverarle perché perdeva tempo. Le donne pensano a mille cose mentre tirano l'ago, ma Artemisia cuciva senza pensare a nulla, affondando in certe immagini elementari di una stradetta angusta, di una piccola spada che scintilla di punti come orme d'uccelli sulla neve. Si bucava spesso l'indice ed ecco il sangue da succhiare, alzando gli occhi con un leggero cipiglio. In quelle pause le accadeva talvolta di sentirsi scossa all'improvviso come da un interiore rimbrotto. Che cosa faccio? Si chiedeva, quasi stesse commettendo un'azione vergognosa. E chinando da capo la testa, forse arrossendo, sentiva in sé un brulichio sommesso, come di meccanismo che stia per scattare. Volentieri si sarebbe alzata in piedi, ma posando l'occhio sulla schiena curva del padre, eccola di nuovo, quieta, rassicurata. Le giovavano certe faccenduole domestiche, lavare fazzoletti, lucidare una scatola o un piatto, che a poco si era messa ad amare e a prodigare senza necessità intorno al vecchio, dicendosi, al modo delle donne casalinghe inveterate, che lui ne aveva bisogno, che stava a lei il combattere la gloriosa polvere dello studio perché Orazio non vivesse in tanta sporcizia, appena soccorsa da una scopata dei garzoni. Cominciava a ragionare come le sue innumerevoli simili e a non rispettare il lavoro dell'uomo, oggetto più che altro di curiosità indiscreta. E poiché Orazio usava assentarsi all'improvviso e uscire senza dire dove andasse, era un'avventura insinuarsi con cencio e piumaccio fra telai, cartoni, tele arrotolate, quaderni e vecchie lettere, col pretesto dell'ordine e della pulizia. Muoveva e perlustrava ogni oggetto, si incantava a ricercare il tempo di un disegno, l'originale di una testa o a decifrare una firma ingarbugliata, atti compiuti con un gradevole batticuore, pronta la mano a dissimularli e l'orecchio a ricevere la filza di bestemmie incandescenti con cui il padre avrebbe in tempo colpito simili confidenze. Era in fondo un gioco d'azzardo e perdette il sapore il giorno che Orazio, cogliendola in quel maneggio, non mostrò da vedersene e subito rincantucciato attese, come al solito, alle cose sue. Magnanimità intenzionale o semplice astrazione valse a sgominare quelle femminili debolezze e a spiegare sempre più profondamente la dirupata natura di un uomo così eccezionale, talché il leggero dispetto che ancora Artemisia concepiva vedendogli coprire con la mano o con le spalle quel che andava facendo, si dileguò, sostituito dalla comprensione di un pudore di solitario che, come può, si difende dal mondo. Vicino alla figlia, del resto, egli ne era lontano come un anno fa, che migliaia di miglia li dividevano, non per disamore, ma per l'intransigenza sempre più serrata nell'evitare dispersioni e le angustie degli affetti. Aveva rifiutato gli agguati della vita e combattuto l'opera del tempo. Sta bene, Francesco? Giulio, sta bene? L'interrogazione all'incontro di Canterbury fu più un comando aggressivo che un'inchiesta. Nella risposta affermativa necessaria alla sua pace intellettuale, egli si era campato da padrone e gli sarebbe bastata guai ai disturbatori finché vivesse. Non di frequente, ma pure accadeva che la brigata degli artisti di corte bussasse a quella sua porta tradimenticata e leggendaria. E la prima volta che capitò, Artemisia temette un'invasione di cortigiani, tanto nobilmente eran provvisti e con quel tratto franco, un po' troppo ridanciano per il gusto d'Italia. Poi tacevano insieme, in un'attitudine quasi di rispetto, e qualcuno avrebbe potuto riconoscerci un'ironica, chiusa diffidenza, un'intesa di osservare, di raccogliere motivi di discorso per più tardi. Non erano imbarazzati, riverirono la signora Artemisia, arrivata di fresco e sbrigativamente presentata dal vecchio scontento. Ricominciarono le risate grasse e concordi. Solo quello nomato Anthony, bell'uomo che stava in contegno e mai non si levò i guanti, se ne asteneva. Fiammingo come gli altri, ma aveva palazzo e scuderie e una lady per moglie, come qui sono chiamate le dame. Parlava bene italiano e italiano parlò con Artemisia, ma sempre tenendosi sulla conversazione distante, senza riferirsi all'arte comune. Orazio parlava inglese con una velocità strafalciona, insofferente e quasi rabbiosa, scavalcando le parole a testa bassa o lasciandosele uscire di bocca sfatte dal suo palato toscano, cibo repellente. Pur lo capivano quei signori e cominciarono a passarsi di mano in mano gran fogli di stampe con le ultime opere dei maggiori professori d'Europa, ma erano per la più parte cose di Fiandra. Orazio li riceveva senza parlare, ci figgeva coi suoi occhi immobilissimi, sempre pronti, come nobili insetti, a trascorrere sui segni e sui colori. Silenziosamente li rendeva, mai mostrò una sua tela, mai permise che alcuno la voltasse. Tanto notò Artemisia che poco era osservata e meno osservata si credeva, sicché le parve di poter scomparire senza sconvenienza e così fece. Chi non sa cosa voglia dire chiudersi alle spalle una porta dietro cui una compagnia chiacchiera e sta insieme contenta. Non era soltanto il freddo dei corridoi rapidamente percorsi a scavarle un vuoto nello stomaco, a darle una desolata leggerezza di passo. Per raggiungere la sua stanza molto doveva salire. Lei alloggiava in un soffittone dove l'aveva accomodata il buon piacere della regina, insieme a damigelle, stipendiati, vecchi servitori, gente che non stava mai quieta, ma ad ogni ora la incontravi su e giù dai gradini, su e giù, e dovevi tirarti da parte che le scale erano strette. La stanza è grande e chiara sui tetti di Somerset House, scarsamente guarnita di mobili sontuosi e sconnessi che possono mutare dalla mattina alla sera. Per le necessità di una corte usa a spostare ogni giorno masserizie da un'ala all'altra del palazzo, che scarso è il denaro, smisurato il consumo. Non è raro che Artemisia, rientrando, ci trovi un secondo letto parato e chiuso, dentrovi una qualche fanciulla o matrona addormentata, ospite di passaggio. Accidenti comuni alla corte di Enrichetta, ma fuori di questi casi la camera è deserta. Gelida e remota, come non sovrastasse una reggia zeppa e brulicante. Appena se ci arriva lo strillo dei pavoni bianchi dalle serre della regina. Chiuso questo secondo uscio, è un atto di coraggio non tradire il passo frettoloso fino al cavalletto su cui la solita tela resta abbozzata. Ma il cavalletto è accanto alla finestra e le finestre sono il rifugio degli incerti e svogliati di sé. Dall'alto, lo spettacolo dei prati grigi, del fiume Ferrigno, della nebbia ormai invernale, ancora una volta, senza ragione, Artemisia ci si incanta. Un mondo inaccessibile alla notizia viva, all'imprevisto, le sta davanti ieri come oggi. Si siede, ora dipinge seduta, la fiera Artemisia, che questo quadretto non vuole essere affrontato, non è che una Susanna coi suoi vecchioni di piccola misura, perché qui il grande non incontra. Poi non ha modello, la bionda Nina, figlia di un cuoco lombardo, suo padre e questi signori pittori forestieri la tengono tutto di occupata, dicono che ha una luce bellissima di carni. Per lei non avrebbe tempo e le sue donne sono sempre state brune. Secchi i colori sulla tavolozza, lei si stanca adesso di dipingere prima che siano impiegati, e sporchi, tetri per questo clima. Par maledizione che da quando è qui il suo operare si riduca sempre a faccenda. Eccola che gratta col coltello una biacca gessosa tutta screpolature e le sembra di ripulire un tegame. Intanto quel diffuso chiarore sui giardini si lividisce, diventa sostanza vischiosa che impasta più che non accusi i contorni. Il giorno dopo, poco in questo paese, il giorno dura poco in questo paese, non c'è tempo di dipingere che di mattina e vedi come la tela, appena abbozzata, già sia liscia, oleosa, che non dà gusto l'applicarcisi. Suona la gran campana della torre e copre lo strider del coltello. Campane così fredde e di così stralunato imperio. Artemisia non ne ha mai udite. Il suo esilio ne diviene tanto assurdo che lamentarsene non servirebbe. Battono le campane e campanelle di queste chiese eretiche dai nomi traditori, spassi e gaiezzi e di garruli fantasmi su per questi cieli annebbiati. Pure bisogna abituarsi a sopportarle e a intenderle se il babbo ci si è avvezzato. Col coltello sospeso tra le dita, Artemisia fatica a costruire un'immagine a propria somiglianza, l'immagine di una donna matura che viva e dipinga contenta in Inghilterra. Sarà per domani, dappertutto, anche sottoterra, è uguale il buio. Con le prime lettere giunte dall'Italia a fine inverno, la sordità del mondo parve riaprirsi. Non per Porziella che mandava filze di polizzini da pagare e chiedeva senza dilungarsi la benedizione materna, ma Francesco, superato al suo modo mite il rancore d'esser lasciato a casa, dava quelle sue dilatate e parziali notizie di quadri venduti bene, di giudizi lusinghieri, di commissioni certissime per l'epoca del ritorno, offrendo ancora di partire a un cenno e venire a rilevare Artemisia costa giù, che nulla mi farà fatica per voi, signora sorella, scriveva, quasi messo in soggezione dalla lontananza e da quell'indirizzarsi a una reggia e lottando con le formule insolite perché il solito affetto trasparisse intero. Contemporaneamente la regina fissò la data della presentazione di lì a 3 giorni e la pittrice comparisse sola. Le improvvisate piacevano un tempo a Orazio, uomo di decisioni istantanee e insofferente d'indugio, ma non gli piacque questa e cominciò a mormorare e ad agitarsi quasi non ci fosse da aspettarsela. Pareva di sentirlo scalpitare mentre si aggirava fra le disparate masserizie e lì urtava, qua rabbiosamente sospingeva, cercando questo e quest'altro, trascurando il lavoro. Quando e come egli vedesse la regina, suo familiare da tanti anni, Artemisia non era riuscita a indovinare e se talora gliene aveva chiesto, con un fare sbadato che fin da piccola usava per cose che le importavano molto, s'era scontrata nell'antica disattenzione di acciaio, una sorta di indomabile pazienza nel rifiuto a rispondere, eh? Faceva il vecchio, senza neppure voltarsi o alzare il capo, e 100 volte avrebbe ripetuto quel verso, segno di ricezione lontana e inutile, se 100 volte gli fosse stata ripetuta l'inchiesta. Ma Artemisia non la ripeteva. A sera la stanchezza piombava su di lui con una rapidità giovanile che spesso lo faceva cenare con una mano, la bella mano leggera, sugli occhi, quasi a difendersi da un mondo di atti e suoni che non riguardassero lui e la pittura, nonché le chiacchiere di una donna. Ma nessuna voce lo raggiungeva più, in misura eccezionale, e come parve alla figlia, allarmante, il messaggio della regina sconvolse questo costume. Risuonarono fra la polvere manomessa gagliarde e rampogne che datavano dal 1610, dal 1615, come gli anni di sdegnoso silenzio d'esilio, di separazione e disinteresse, pesassero meno di un'ora. Figlia di mignotta, ti muoverai? Gridava quando le sue sollecitazioni e apprensioni non destavano nella donna matura un troppo visibile sgomento. In 20 frasi fulminanti Artemisia avrebbe potuto apprendere su Enrichetta di Francia, regina d'Inghilterra, più che non avesse mai pensato a domandare. Erano notazioni balzane, ghiottonerie da informatore segreto. Bisogna lodarle le mani, che sa di essere brutta, e dirle che assomiglia a suo padre. Non mangiare le sue pastiglie quando te ne offre, sono cose di inferno. Ricordati, sciocca non è, ma stravagante. Una parola è poca e due sono troppe. Può anche baciarti in viso, ma tu non la bacerai, so quel che dico. E una volta, borbottando tra sé, povera donna, quanti ne resterà dei suoi ritratti? Modi e parole perentori, quasi insolenti, contrastavano tuttavia con l'impazienza, con una specie di orgasmo nel definire e discutere certi particolari minuti, frivoli. Inquisì come Artemisia sarebbe vestita, pettinata. Volle scegliere nel guardaroba di lei il suo passo di piombo, percorse corridoi, scale e antisale che certo da anni non lo vedevano. Fece Orazio trabalzare paggi e cameriste sbalordite, sbagliò strada, fendette sopra pensiero l'ambasceria persiana in attesa di essere ricevuta, pestò un piede a Lord X che usciva dal consiglio segreto, la mano ancora sul petto. Raggiunta infine la stanza della figlia, bussò tempestosamente, entrò come un tronco d'albero cade e si mise delicatamente a trascegliere capo per capo sottane e corpetti. Così usava fare quando frugava nelle sue casse per trarne di che vestire un modello a suo gusto, donna o angelo, e i lini non erano mai abbastanza sottili, le sete abbastanza chiare e soffici. Mise da parte una gonnella di broccato azzurro, qualche merletto, guardò la figlia che, in attitudine sommessa, a testa china, si componeva involontariamente nell'antica figura di giovinetta timorosa e un po' infedele. Questa infedeltà, sempre indovinata e abborrita, maledette le donne a toccare adesso l'uomo vecchio, ormai saggio. Poggiò la mano schietta e lieve sul volume dei capelli chiari che aveva così poco accarezzati, tante volte dipinti, di così quieto lume. «Ti sta bene l'oltremarino?» mormorò assorto, e le dita scorrevano lentamente fino al collo, fino alla spalla ancora gracile della figlia. Si alzò, curvo, come stanco di un pensiero troppo triste, ma ad un tratto risentito e duro. «Hai pronto il complimento?» chiese. Guardò con sospetto il mucchio delle tele voltate alla parete, ma non quella che stava sul cavalletto. Da sé non toccò un telaio e aspettò che Artemisia li voltasse uno per uno con le sue mani. Dacché ella era a Londra, mai l'aveva ricercata del suo lavoro né chiesto di vederne le prove. Ora il suo esame era terribilmente lento, se non che la pupilla, dopo essere rimasta a lungo fissa e come coagulata su una tela, prendeva a muoversi, a vorticare fulminea, quasi la leggesse e la trapassasse. La soggezione di Artemisia, pronta a sollevare e ad accomodare i quadri nella miglior luce, e poi ritta accanto al cavalletto dove ogni dipinto veniva posato, era adesso di una sollecitudine ansiosa, sì, ma tutta dedita e scoperta. Non c'era nulla sulla tela che volesse nascosta o dissimulata, né si vergognava di essere esposta così nel suo lavoro, povero o felice che fosse, e senza sapore unico di giorni in cui si era dolcemente persa a ricreare un viso, un panno, a inventare una luce sagace, a stendere una velatura eloquente. Non un medico e neppure il confessore l'avrebbero trovata più sincera e umile. Un linguaggio si parlava, a occhiate, nobile e segreto, che pure abbracciava tutto il mondo visibile e anche un gran tempo oltre la vita umana, in un'eterna accademia di maestri, di cui Orazio portava il segno e il giudizio. E, dopo il necessario silenzio, furono scambiate le parole libere ed efficaci dell'arte, e una incantata parità di espressione si stabilì, che oltrepassava la contingenza di età, di sesso, di parentela. Ecco, giustificata Artemisia, matrona bizzarra che è partita sola di casa, senza necessità, come la gente può dire. Eccola, sicura e lieta, di fronte a questi gesti e parole, incomparabilmente rispettosi, a questi riconoscimenti, a queste leali riserve. Due spiriti, non un uomo e una donna, non un padre e una figlia. E la figlia, affrancata dall'ossequio, sciolta in un fervore di dimostrazione che la fa ardita, alza la fronte e gli occhi, spiega le difficoltà, chiarisce le intenzioni, riconosce gli errori senza soffrirne, gode delle riuscite senza insuperbirne, anzi ridendo, come di scherzi ben condotti. Un tantino di ebbrezza, il pugno della donna si appoggia al fianco, virilmente. Tutto il corpo, compresso nella rigida ampiezza dei panni, sfoggia gesti poco femminei, ma così innocenti. Questa dannata pittura, ti dico che uno scorcio di questo taglio, il Baglione e gli altri romani, non lo azzeccherebbero. No, lascia stare i paesi, non son cose per te. Ora la vita di Artemisia par tutta un armonioso fluire, dai primi insegnamenti paterni all'ascetico giovanile esercizio. Sino ad oggi che Orazio le discorre con limpida rudezza, come ai compagni di Via della Croce, i migliori pittori di Roma. Una felicità intoccabile in cui l'onore così presto perduto viene restituito a un animo che già cedeva. Non importa essere stata donna, più volte sconsigliata, due volte tradita, non c'è più dubbi. un pittore ha avuto nome, Artemisia Gentileschi. In questi giorni si sparse in corte come novità freschissima la notizia di 6 mesi innanzi. È arrivata un'italiana, gran virtuosa di pittura, figlia di quel vecchio, il Gentileschi, protetto di Sua Maestà. Bella, è giovane, anzi, non tanto giovane, ma bellissima e superba, come un diavolo papista, e veste sempre di nero alla genovese. Non alla genovese, alla spagnola. Vien da Napoli, anzi da Madrid, è mandata dai gesuiti. Sarebbe una spia? Si degnarono di parlarne le dame, schernendo in punta di labbra e ognuna col suo fine, e certe stornavano il discorso commentando la nuova scimmia di Lady Arabella, che è di pelo turchino, dono di un prete che vive a Samarcanda. Lady Arabella si dice incomodata, pretesto insolente per ricevere gli intimi nel famoso gabinetto a forma di conchiglia, lei vestita da galatea con la sola camicia di lino trasparente, come l'ha dipinta Orazio nel Mosè ritrovato. Questa pittrice non sarà un'amante in abito di donna? È un'assassina che il Papa ha salvato dalla forca. È una bastarda del Papa. È razza di cani, una gitana. Ma le gitane non sono bionde. Insomma, chi l'ha veduta? L'avevan vista in 100, in 1000, per quelle benedette scale e passaggi a volta bassa, dove il servizio della francese ingorgava uomini, donne e ragazzi, ma se avevan formulata su di lei una supposizione, chi l'aveva creduta una smunta cucitrice in prova, chi la vedova del giardiniere Smith e Robert Dodd, tappezziere novizio, la prese, non si sa come, per una cantatrice. La sera, alla taverna, ingozzando birra, disse che ormai sapeva come son fatte da vicino le donne di scena. A corte le incontra chi vuole, si danno grandi arie. Adesso, con quel gusto di notizia ghiotta che discende dalle sale alle anticamere, ogni donna era squadrata e le cameriere ridanciane si dicevano l'un l'altra: «Oh, sei forse Artemisia?» Una biondiccia, la definì Mary Bones, che le rifaceva il letto, ma non fu creduta. Sta il fatto che in camera Artemisia non ebbe più compagne di passaggio e trovò il fuoco acceso ogni sera. Dal padre le visite non mostravano più di assecondare quel suo vezzo di ritirarsi senza parere. Con intenzione la inchinavano gli artisti, accompagnati dalle spose, queste donne fiamminghe dalle gote ricche di riflessi vermigli sotto i gran cappelli a fungo, lustre di perle. In Fiandra le donne non fan professione di pittura, almeno alla scoperta, e queste, che l'hanno tutto dì sotto il naso nella persona dei mariti, s'accendono di curiosità, quasi di cupidigia per una che pretende di eguagliarli. Sarà poi vero? Non ci sarà inganno del padre? E guardano e indagano le più con uno struggimento inconfessato d'invidia, che è quasi una disperazione. Vedi come la tratta il signor Van Dyck, quel favorito, il solo che ormai esca dai termini dell'eterna domanda, come le piaccia questa città e questa corte. Perché anche il pittore delle dame si è sciolto dal suo grazioso sossiego e così amabilmente che pare ad Artemisia di averlo conosciuto in Italia, tanto si apre con lei sulle bellezze di colà, Roma, Napoli, Palermo. E che diremo di Genova e delle sue magnificenze? Ne conosce le vie per minuto, nomina i casati illustri, ricorda le belle dame perfette dei suoi tempi, sospira e fa il nome dell'eccelsa Pietra Spinola. Un miracolo. Ancora in vita? Focosamente risponde di sì Artemisia e le sale alle guance un rossore di innamorata. Qui finisce la puntata di oggi. Vogliamo solo fare una piccola annotazione. Poco fa nel testo avete sentito dire da Anna Banti che le donne fiamminghe non fanno pittura. Questo non è vero perché come Scuola delle Donne abbiamo dedicato un docuvideo a Judith Leichter, pittrice fiamminga nata ad Haarlem in Olanda proprio qualche anno dopo Artemisia, quindi sua contemporanea.